begins. Each day climbs a line for the half dozen limbs. Fired backlash. Bugs were fallen, turned into a bloodbath. Occupation of liberation. Nation building, faith of reflective grace. Trapped in this wire fire. Back for time, good fuel on the fire. See a blood flood, the occupied land. While a village in, police were in the sand. And the presidential sandbox is out of harm's way. Sei tornata a Bologna, nella tua casa di San Vitale, senza più voce ad accompagnarti, che in fondo nulla c'è da gridare, ma quanti pugni portavi in questi giorni di marzo, che erano giorni in cui tutto pareva possibile a Carla. Tornata a Bologna, nella tua casa di San Vitale, senza più voce ad accompagnarti, che in fondo nulla c'è da gridare. Ma quanti pugni protesi al cielo in questi giorni di marzo, che erano giorni in cui tutto pareva possibile, Carla. Sei tornata a Bologna con quei tuoi riccioli impertinenti, in quel silenzio che assorda di rabbia ho cercato più volte il tuo sguardo. Non è soltanto per dirti ci siamo che a viso scoperto marciamo stretti, mentre il partito con ordine infame riprende e tradisce i compagni dai tetti. A Bologna, coi drappi rossi listati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia. Era l'alba, era tutto. E così sei tornata a Bologna, coi drappi rossi listati a lutto. Se mi dovesse accadere qualcosa, pensate a mia figlia. Era l'alba, era tutto. uomini caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. Onore a Barbara, onore a Maurice e a tutti i compagni caduti in battaglia, che mille mani impugnino le armi, anche soltanto per ricordarli. 6 marzo 1979. Un silenzio cupo schiaccia Bologna. Bandiere, fiori, una corona. Barbara era una di noi, che mille mani impugnino le armi. Un fotografo riprende i partecipanti. L'ordine è del Partito Comunista Italiano. Cerchi disegnati intorno ai volti. Barbara Azzaroni, Carla, ha soltanto 29 anni quando viene uccisa in un bar a Torino durante un agguato poliziesco. Con lei Matteo Caggeggi, Charlie, operaio di 20 anni. Prima linea è radicata nelle fabbriche, per il PC è inaccettabile e nel febbraio 1979 lancia un questionario antiterrorismo. 6 domande, la quinta invita a denunciare in modo anonimo il vicino di casa o il compagno di lavoro, anche sulla base di un semplice sospetto. 100.000 copie stampate. Prima linea decide di attaccare uno dei responsabili dell'iniziativa. E bentornate, bentornati anche da parte mia. A Zardins Magnetics abbiamo iniziato con questo pezzo dei Contrasto, band romagnola, che si intitola C'è qualcosa in me che è più vecchio di me, che appunto parla di questa vicenda, di questo di questi funerali, di questi due compagni uccisi nel 1979, Barbara Azzaroni, Carla e Matteo Caggeggi, Charlie. Allora, loro facevano, chi erano intanto? Barbara Azzaroni nasce a Rimini il 2 febbraio 1950, frequenta l'Istituto Magistrale di Bologna, lavora come maestra a Bologna negli asili nido del comune. Nel 1969 ha una figlia, milita nei movimenti in potere operaio nelle formazioni comuniste combattenti in prima linea. Viene uccisa dalla polizia a Torino il 28 febbraio 1979 insieme a Matteo Caggeggi. Il 6 marzo del 79 c'è questo funerale appunto a Bologna di Barbara. Diviene un lungo corteo di familiari, femministe, militanti della sinistra extraparlamentare, parenti di detenuti politici, che sfila per le vie del centro, presenti anche molti agenti della Digos e della sezione antiterrorismo dei carabinieri. E che cosa avevano, che cosa volevano fare questi due compagni? Volevano attaccare questo Michele Zaffino, che era uno del PC, presidente del consiglio di quartiere, tra l'altro è uno che è ancora vivo, e costui si era distinto a Torino per alcune azioni tipicamente poliziesche nei confronti del movimento di lotta proletario e soprattutto delle sue avanguardie combattenti. Come abbiamo detto prima, aveva stilato questi questionari che invitavano alla delazione praticamente la popolazione dei quartieri. E in occasione di, per chiamare a questo funerale, beh, invece il funerale di Matteo si svolgerà a Torino e anche lì sarà molto partecipato. E per chiamare appunto al funerale di Barbara Azzaroni ci sono stati tantissimi volantini, tantissime chiamate dalle più disparate parti. Vi leggo uno stralcio di un volantino di alcune compagne degli asili, appunto compagne quindi, che erano anche compagne di lavoro della Azzaroni e che facevano parte di collettivi femministi. Barbara, ti hanno assassinata perché lottavi per il comunismo, per vivere una vita senza oppressione né sfruttamento. Barbara, ti hanno assassinata perché nella tua lotta contro questo Stato non accettavi nessuna mediazione e la tua lotta era ed è sempre stata la lotta di tutti gli sfruttati. Barbara, ti hanno assassinata per la tua rabbia, per la tua coscienza collettiva, per la tua conoscenza di classe, per la tua umanità, per la tua coerenza politica contro lo stato di cose presenti. Dall'occupazione del nido Spartaco ai cortei, dalle assemblee alle mille pratiche di lotta che il movimento ha espresso in questi ultimi 10 anni, affermando quei bisogni proletari che erano anche tuoi. E non ti fermavano di certo le provocazioni dei sindacalisti che nelle assemblee ti additavano come estremista e cercavano di isolarti. A chi in questi giorni è da sempre distorce la tua immagine e cerca di nascondere la tua militanza rivoluzionaria, noi affermiamo che le tue scelte nascevano da un bisogno profondo di trasformare la vita. Il tuo corpo e la tua testa, il tuo pensiero e la tua pratica erano fino in fondo dentro la scelta di vita che esprimevi. Tu come Barbara. Il tuo essere donna era il desiderio complessivo di fare uscire fuori la forza che può uscire solo quando non accetti più il silenzio e non ti senti più nei mille ruoli in cui il potere ti relega, questo potere che sfrutta, reprime, uccide e terrorizza. Partecipiamo ai funerali della compagna Barbara Azzaroni martedì, era il 6 marzo 1979, alle ore 17 in via San Vitale 28, che era appunto il quartiere dove Barbara Azzaroni era, da cui lei proveniva, insomma. Allora, abbiamo scelto di iniziare con questo omaggio perché vorremmo dedicare un po' tutta la puntata alle lotte, diciamo, delle donne ribelli, e parlando anche appunto, lo faremo insomma nel corso della trasmissione, delle proteste, delle rivolte carcerarie nelle sezioni femminili di questi ultimi tempi. E vale la pena però anche di spendere alcune parole sulla band, appunto sui Contrasto, perché i Contrasto intanto sono una band hardcore e si sono sempre non dedicati solamente alla musica, ma contemporaneamente alla musica e alla politica. E loro stessi dicono che Contrasto Hardcore nasce, diciamo, dall'esigenza di suonare musica mantenendo però un'intenzione politica sempre presente. E appunto la tematica rivoluzionaria e anche antistato e anche contro il carcere e la repressione è sempre stata molto presente nei loro pezzi. E io metterei un altro pezzo dei Contrasto e poi magari parliamo dell'ultimo progetto musicale che hanno portato avanti. Civiltà di un occidente che nobilita e pacifica barbarie democratiche. Si vede con più che assenti, si vede classe dominante. La guerra per la civiltà di un occidente che nobilita e pacifica barbarie democratiche. Si vede con più che assenti, si vede classe dominante. La la la la, ma quale coloro che sopravvivono in potenza. Yeah. Sì, tra l'altro i compagni dei Contrasto sono stati nel 2017 anche qui a Udine a presentare L'abile istante di vuoto, un altro progetto in acustico, e appunto erano stati, li avevamo invitati insieme a Marita Prette della Sensibile alle Foglie, responsabile del progetto Memoria di Sensibile alle Foglie, che aveva appena scritto un libro sulla tortura di Stato, e quindi avevamo fatto questa iniziativa mista, insomma, presentazione del libro più appunto concerto in acustico, per rimanere appunto fedeli a questo spirito di espressione musicale, quindi artistica, e anche però presa di posizione, intenzionalità politica molto forte. Allora, i Contrasto hanno appena portato a compimento un progetto che si chiama Visto per Censura, che non è un disco, diciamo, ma è un libro più disco. E dicono in una loro presentazione, se andate a cercare, c'è anche su YouTube un piccolo video, poi ci sono insomma delle varie testimonianze, anche se andate su sul blog dei Contrasto appunto. E l'esigenza di produrre questo, cioè, allora, l'idea nasce da un viaggio che fanno a Ventotene e Santo Stefano, entrambi isole penitenziario, cioè Ventotene, da Ventotene poi si arriva a Santo Stefano, dove c'è questo penitenziario nell'isola, un'isoletta piccolissima, insomma, dove c'è stato il primo ergastolo italiano, c'era con i Borboni, insomma, dal 1700, e fanno questo viaggio, e quindi da questa esperienza nasce l'esigenza di fare questa produzione. E difatti il CD contiene un file molto interessante, anche il Bandcamp, un file molto interessante dove c'è la lettura della narrazione della rivolta nell'ergastolo di Santo Stefano, una rivolta che era avvenuta nel settembre del 43, e la narrazione è fatta con le parole di Sante Pollastro, naturalmente rilette da non so da chi, comunque c'è una voce, insomma, che legge le parole di Sante Pollastro. Però la cosa interessante è che l'idea di fare libro, l'altra cosa interessante, l'idea di fare libro più disco nasce da questo. Ci dicono i compagni dei Contrasto: noi proviamo, nella varia corrispondenza che abbiamo con i detenuti e le detenute, proviamo a inviare i CD, però siccome le loro produzioni sono quasi tutte in vinile, i CD sono CD masterizzati. Allora, in questi anni c'è stato questo problema grosso, ma c'è continuamente, se si hanno appunto corrispondenze con persone che sono detenute, questo problema che i CD non passano, perché non sono, se non sono conformi, cioè se sono masterizzati non passano, passano solo se sono originali. E quindi questa è una forma di censura, e di, oltre che di accanimento, diciamo, molto pesante, perché di fatto impedisce ai detenuti di ascoltare la musica che vogliono. E allora, da questa cosa, cioè per superare questa questione, hanno pensato, i Contrasto, in questa occasione, di produrre un CD come CD, insieme a un libro, per cui c'è questa doppia veste, insomma, di doppia veste editoriale, che ci si augura anche che passi più facilmente, insomma, all'interno delle carceri, e che quindi raggiunga i desideri dei detenuti che ne fanno richiesta e che li apprezzano. E niente, andate a vedere, magari è interessante andare a vedere sul blog appunto dei Contrasto stessi, ci sono anche così una chiacchierata con i componenti della band sul perché hanno fatto questa cosa. E poi naturalmente anche i pezzi da ascoltare, poi ci sono anche le indicazioni per richiederne le copie, che comunque potete chiedere anche a noi, poi magari quando vediamo i nostri contatti, come sempre, perché anche noi li distribuiremo. Di queste catene senza la fine. Bene, questi erano, come ha appunto sono stati presentati, in contrasto da questo loro ultimo album politico personale. E ora invece passiamo all'ascolto di questa band direttamente dalla Sardegna. È un album che era uscito nel 2010 e comunque è stata l'unica esperienza di questa band, perché poi si è subito, diciamo, sciolta dopo l'uscita di questo disco. Loro sono di Cagliari e il nome della band è Il Disagio, e questo era il loro album Il Prezzo dell'Anima. Thursday on the fucking Cops! E abbiamo ascoltato questa band sarda, Il Disagio, da questo loro album datato 2010 che si intitolava Il Prezzo dell'Anima, ed è comunque l'unica uscita discografica per questa band, e tra l'altro cantano sia in inglese che in italiano, ma ovviamente mi sono beccato tutti i pezzi in inglese, comunque scusate. E ora invece andiamo all'ascolto di questa band inglese, da questo disco, che sono due le band all'interno, uno split 12 pollici, sono una band inglese e una americana. Gli americani sono i War Plague di Minneapolis, mentre quelli che andiamo ora ad ascoltarci sono di Birmingham, sono inglesi, e il nome di questa band è mai più azzeccato, ovvero Police Bastard. Destroy! Carla dal 26 luglio 2020, dopo 536 giorni di latitanza, si trova imprigionata nelle patrie galere. Accusata del reato di associazione sovversiva nell'ambito dell'operazione Scintilla, si trova detenuta nel circuito di alta sicurezza, nel carcere di Vigevano. Dal mese di maggio, in questa sezione, le lavatrici sono rotte e c'è stato un periodo in cui le facevano fare solo le ultra sessantenni. In questo momento la lavanderia è in ristrutturazione, dunque nessuna le può usare. Il bucato si fa o con l'acqua fredda in cella o nelle docce, ma anche qui, da quando sono accesi gli impianti di riscaldamento, l'acqua calda va a intermittenza. Come se ciò non bastasse, è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo un tira e molla durato una decina di giorni, la situazione era diventata inaccettabile per noi. Già si diceva a mezza voce che se non ci avessero dato delle risposte concrete, sarebbero partite le proteste. Le ispettrici si presentavano ogni giorno a farci un punto della situazione. Quando è salita ci ha comunicato che non solo il telefono non sarebbe stato ripristinato quel giorno stesso, ma in più, mentre il maschile e la sezione femminile comune avrebbero fatto una chiamata a casa con il cellulare che si usa solitamente per WhatsApp, a noi della S veniva negata la possibilità perché questa modalità impedisce la registrazione delle chiamate. Così abbiamo deciso che avremmo cominciato la battitura. Nessuna figura del carcere si è presentata, allora abbiamo deciso di fare una pausa e di prepararci per fare un fuoricella alle 15, ora della chiusura pomeridiana di 3 ore. Intanto abbiamo scritto la comunicazione firmata da tutte e l'abbiamo presentata. Alle 14.15 abbiamo ripreso la battitura per altri 45 minuti e ci siamo fermate alle 15, ora in cui abbiamo comunicato che avremmo attuato il fuoricella. Abbiamo socchiuso i cancelli delle celle e siamo rimaste tutte in corridoio. Dopo pochi minuti è salita l'ispettrice del femminile accompagnata da un ispettore della sorveglianza. Ci ha detto che potevano avvisare loro le famiglie del guasto del telefono, ma abbiamo risposto che volevamo chiamare noi di persona perché ormai le nostre famiglie della situazione erano al corrente, ma avevamo bisogno di sentirli personalmente. Se n'è andata dopo circa mezz'ora, dopo averci detto più volte che facendo il fuoricella stavamo oltrepassando il limite. Quando è andato via, l'assistente ha riproposto la chiusura, ma noi abbiamo ribadito la nostra volontà di portare avanti il fuoricella. Dopo neanche 15 minuti è tornato lo stesso ispettore dicendoci di aver parlato con il direttore e che questo avrebbe chiesto al DAP se andava bene farci chiamare 4 minuti a testa con il telefono cellulare. Ci ha promesso una risposta per l'indomani alle 11 e abbiamo accettato di rientrare in cella, ripromettendoci di continuare con la protesta se la notizia fosse stata negativa. Questa mattina alle 8 ci è stato comunicato che la linea è stata ripristinata e abbiamo ripreso a fare le chiamate dopo 12 giorni di interruzione. And now, the six Mary murderesses of the Cook County Jail in their rendition of the Cell Block Tango. Non sappiamo se la nostra protesta c'entri con questo ripristino. Aggiungo che a memoria di chi sta in questa sezione da tanti anni, una protesta che arrivasse fino al fuoricella non si era mai vista. You. Cicero. Ships. Fist. Squish. Cicero. Dopo l'ondata di rivolte che ha sconvolto le carceri italiane a marzo dell'anno scorso, nonostante i morti, le botte e la repressione che ne è scaturita, la brace non si è ancora spenta. Quelle che dovevano essere delle misure emergenziali stanno diventando giorno dopo giorno la normalità, peggiorando drasticamente le già degradanti condizioni di vita dentro quelle mura. La storia di Carla e delle detenute della sezione di alta sicurezza del carcere di Vigevano è solo uno dei tanti episodi di lotta che stanno attraversando la penisola e che lo faranno ancora e ancora e ancora. Is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Shiny, set the night on. Scusate, intanto stiamo ascoltando i Police Bastard, e band inglese di Birmingham, da questo loro album del 2011, anzi uno split assieme agli americani War Plague. Ecco, e prima del... beh, siamo sempre su Zardins Magnetics, intanto, Ondi Furlane, e prima di questo ultimo pezzo musicale dei Polizios Bastards, dite per Furlan, era appunto, avete ascoltato l'audio di un video che parlava, insomma... diffondeva la notizia e l'importanza di questa rivolta pacifica, nel senso che non ha avuto esiti cruenti ma comunque determinata, che si è svolta appunto nella sezione femminile di alta sicurezza di Vigevano, dove è prigioniera anche Carla Tubef. E per rimanere sempre su questo argomento appunto della ribellione, quindi delle donne prigioniere, e nel video, in questo video appunto di cui abbiamo ascoltato l'audio, nella parte finale venivano ricordate tutti gli appuntamenti, tutte i presidi, le iniziative, le battiture, le iniziative insomma di lotta e solidali dentro e fuori le carceri. Tra queste varie iniziative, veramente siamo in un momento di grande fermento da questo punto di vista, per fortuna, veniva fatto anche la data di Trieste, appunto lunedì 1 febbraio a Trieste. Infatti lunedì 1 febbraio appunto si è svolta questa importante battitura di protesta, Cacerolada Solidale, anche detta fuori dal Coroneo, e chiaramente erano presenti anche una trentina di solidali anche fuori dal carcere. La proposta di questa cacerolada è venuta proprio dalle detenute in un presidio precedente, un presidio che si era svolto il 23 di gennaio. Le rivendicazioni delle detenute del Coroneo sono: essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue sierologici piuttosto che essere costrette alla vaccinazione; l'indulto, i domiciliari per le persone con problemi sanitari e con gravi patologie, e anche per tutte le detenute e i detenuti in residuo di pena. E naturalmente poi ci sono anche tutta un'altra serie di richieste che riguardano la possibilità di avere di accedere alla socialità, cosa che è assolutamente bloccata a causa delle politiche demenziali che dovrebbero far fronte alla pandemia, e poi anche un miglioramento della condizione igienico-sanitaria generale all'interno delle carceri, del carcere del Coroneo. Mi viene in mente che anche qui, guarda caso, le lavatrici, la lavanderia era in disuso, come a Vigevano. E a questo proposito ricordo che a Udine non c'è mai stata una lavatrice, cioè l'unica lavatrice comparsa dentro il carcere in tempo di pandemia. Ecco, questa cacerolada solidale è stata diffusa, la notizia, insomma, la chiamata per questa cacerolada è stata diffusa anche in tutte le carceri italiane. E durante questa iniziativa, della quale poi vi parlerà più diffusamente un compagno in un prossimo intervento, le detenute hanno lanciato un'ulteriore chiamata, per il 15 di febbraio, sempre un lunedì, e sempre alle ore 15:30, sempre davanti al Coroneo, per ribadire queste loro richieste. Ripeto, essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue sierologici piuttosto che essere costrette alla vaccinazione, perché sappiamo che la tendenza è un po' quella di utilizzare, diciamo, anche i prigionieri come cavie per le vaccinazioni e poi chiuderla lì, cioè non preoccuparsi più, diciamo, della sanità all'interno delle strutture. Un'altra richiesta, un'altra rivendicazione, quella dell'indulto, e la terza forte, diciamo, i domiciliari per le persone con problemi sanitari e gravi patologie e per i detenuti e le detenute in residuo di pena. Quindi c'è questa ulteriore chiamata per il 15 di febbraio. E le detenute del Coroneo hanno scelto di fare queste battiture di protesta durante la settimana e non nel fine settimana, proprio perché durante la settimana è aperto il tribunale, diciamo che c'è un maggior movimento intorno al Coroneo, anche così, di persone tra virgolette addette ai lavori. Parliamo anche di un'ulteriore iniziativa di protesta che si è svolta sempre in una sezione femminile al carcere delle Vallette di Torino. Questa iniziativa è stata proprio una cosa abbastanza impegnativa, perché è stato un sciopero della fame che è durato 6 giorni e si è interrotto il 26 gennaio scorso. Vi leggo così qui e lì il comunicato delle compagne che hanno portato avanti questa forma di protesta. Si tratta di Dana, Fabiola, Stefania e Emanuela. In data odierna, il comunicato appunto è del 26 gennaio, a seguito dell'impegno concreto da parte dell'amministrazione carceraria di garantire ad effetto immediato la possibilità di usufruire delle 6 ore ministeriali previste per i contatti con i propri familiari, e a seguito delle notizie pubbliche rispetto al piano prevenzione Covid, che da marzo riguarderà tutta la popolazione detenuta, decidiamo di sospendere lo sciopero della fame, giunto oggi al 6° giorno. E segue un elenco di richieste e di criticità e di richieste urgenti per una detenzione, diciamo, almeno dignitosa. Allora, le criticità che vengono individuate sono la carenza dei percorsi rieducativi di formazione all'interno del carcere e di reinserimento lavorativo e abitativo all'esterno. L'eccezionalità del Tribunale di Sorveglianza di Torino, ma anche a livello nazionale, anche vale lo stesso per la severità dei provvedimenti presi circa le misure alternative, cioè circa il non dare le misure alternative. E poi le gravi carenze strutturali e igieniche all'interno del carcere, che è un problema, abbiamo visto, generalizzato. Per quanto riguarda le richieste, le compagne chiedevano questo: dotazione a tutte le detenute in ingresso e già presenti in struttura di un regolamento penitenziario, miglioramento del vitto quotidiano, rimozione delle griglie strette oltre le sbarre delle finestre, acqua calda in cella, ristrutturazione delle docce comuni, maggiore garanzia serale di rapido intervento in caso di criticità, parliamo dell'area sanitaria, garanzia circa il rispetto delle regole della sezione aperta relativamente alle ore di apertura. Allora, le compagne concludevano il loro comunicato auspicando che si possa al più presto rendere ammissibile la proposta di scarcerazione anticipata, 75 giorni retroattivi, a tutte le tipologie di reato, compreso il 4 bis, che sarebbe il reato che prevede la pericolosità sociale. Inoltre, hanno sospeso questa forma di protesta che consisteva nello sciopero della fame durato 6 giorni, con questo impegno concreto. Vediamo adesso quello che succederà. Inoltre, Fabiola è stata trasferita in sezione con le altre dopo molte settimane di richieste non accolte. E un'ispettrice particolarmente zelante e tediosa nei suoi confronti, che ha portato a Fabiola 2 consigli disciplinari, è stata allontanata. Quindi questa è un'altra, diciamo, piccola vittoria dovuta proprio alla tenacia e alla determinazione delle lotte. e stiamo ascoltando sottofondo questa band finlandese Handstand da questo loro album Never Fall Into Sight. Handstand. A tutte, chi ci ha seguito la scorsa settimana si ricorderà dell'appuntamento lanciato anche da queste frequenze in solidarietà alle detenute della sezione femminile del carcere del Coroneo sotto le mura del carcere il pomeriggio del 1° febbraio. Un presidio solidale, una battitura all'interno del carcere e all'esterno del carcere, una battitura che è stata lanciata dalle detenute che per un'ora e mezza hanno battuto sulle infariate accompagnate da noi all'esterno della galera, che battevamo invece sulle pentole o sui segnali stradali, per delle rivendicazioni che le detenute hanno svolto. Vi ricordo queste rivendicazioni: essere sottoposta a tamponi ed esami del sangue sierologici, piuttosto che essere costrette alla vaccinazione, indulto, domiciliari per le persone con problemi sanitari e gravi patologie e per i detenuti residui di pena. Siamo andati avanti un'ora e mezza, abbiamo fatto un bel casino, eravamo più di 30 circa. Tramite la stampa abbiamo diffuso le rivendicazioni delle detenute. Una nota di colore merita da questo punto di vista il piccolo che ha commentato la volontà delle detenute, la preferenza, diciamo, delle detenute di essere sottoposte a tamponi ed esami del sangue piuttosto che al vaccino, affermando che si tratta forse di una mala informazione del fatto che sono straniere e quindi non sono bene consapevoli della piena efficacia o della piena sicurezza del vaccino, ecco. Quindi insomma il piccolo ci ha tenuto a ribadire l'ignoranza e dovuta anche a motivi, insomma, evidentemente sostenuti dal piccolo, motivi di appartenenza a altre nazionalità e culture, insomma, non troppo implicitamente, sostenendo quindi una sorta di inferiorità culturale. Ma invece, a mio avviso, questa presa di posizione delle detenute è molto significativa e è frutto invece di informazione su tutti i dubbi che questi vaccini in fretta e in furia con metodi genici non adeguatamente sperimentati, non i metodi tradizionali, per il grande business, per i grandi interessi che ci stanno dietro delle multinazionali, insomma, tutti i dubbi che da questo punto di vista sono legittimi e che soprattutto sono giustificati per chi si trova in una situazione di ricatto e quindi di estrema delicatezza e in generale per tutti noi, per la tutela della nostra salute, dei nostri corpi, della nostra autodeterminazione rispetto a meccanismi di profitto più che, a mio avviso, di vera tutela della salute. Importante è che questa lotta continua. Il 15 febbraio saremo di nuovo sotto le mura del Coroneo, convocati dalle detenute, sempre per lottare assieme, per far casino assieme, per farsi falci sentire assieme, per proporre queste rivendicazioni, ribadire queste rivendicazioni e per portare avanti la lotta contro il carcere. Sarà importante anche la presenza che faremo come assemblea, sempre come assemblea permanente contro il carcere e la repressione, il 6 febbraio, quindi questo sabato, fuori dalla galera di Tolmezzo, un carcere a 41 bis che, ricordiamo, nei mesi scorsi è stato il più importante focolaio all'interno del sistema penitenziario italiano, con la quasi totalità dei detenuti contagiati e con un morto, Mario Trovato, di 71 anni. Ricordiamo che all'interno di questo carcere la direttrice Irene Iannucci ha fatto di tutto per impedire le adeguate misure di prevenzione, con addirittura ordini ai secondini di non portare le mascherine, di portarle sotto il naso, e con paventando così un menefreghismo, probabilmente anche per esibizione di potere nei confronti dei detenuti. Addirittura ad agosto 2020 venivano addirittura sequestrate i pacchi con mascherine spedite dall'esterno dai familiari ai propri cari all'interno del carcere. Per questi motivi, un detenuto sottoposto al regime del 41 bis, un detenuto che da anni lotta contro le prevaricazioni, le vessazioni che soprattutto questo sistema di detenzione, dell'isolamento determina, Alessio Attanasio. Per tutto questo Alessio Attanasio ha denunciato alla procura di Udine la direttrice Irene Iannucci, definendo il suo comportamento, ma non possiamo che essere d'accordo con lui, criminale. E quindi denunciando tutta una serie di episodi anche a lui accaduti, i consigli di disciplina a suo carico che vengono convocati perché semplicemente Alessio saluta gli altri detenuti e quindi rompe questo isolamento, questa tortura dell'isolamento, questa vessazione continua dell'isolamento col 41 bis in questa maniera, insomma, così pericolosa, ecco, da tanto da meritare consigli di disciplina e sanzioni. Questi consigli di disciplina venivano svolti nei suoi confronti senza mascherina, tutti e cinque i giudicanti. Ecco, quindi questa è la situazione all'interno del carcere di Tolmezzo. Alessio Attanasio è un detenuto che in questa maniera resiste comunque alle vessazioni, alle prepotenze. Noi saremo fuori dal carcere di Tolmezzo sabato 6 febbraio dalle 14 per solidarizzare con i detenuti all'interno e per continuare un percorso contro il carcere. Quindi sarà importante esserci, è importante esserci il 15 febbraio, è importante in questo periodo stare al fianco dei detenuti che lottano, diffondere le loro rivendicazioni, sostenere le loro battaglie. Sono battaglie che ci riguardano tutti. Anche perché questo clima di autoritarismo che con l'epidemia si è diffuso, forse più anche dell'epidemia stessa, ha trovato nel calcio la sua esemplificazione massima con il massacro a marzo, con i 13 morti a marzo a seguito delle rivolte, e che prosegue tuttora nell'intera società. Non sarà sicuramente la caduta del governo Conte il cambio di guardia, insomma, ai vertici dello Stato a mutare nulla. L'unico percorso che possiamo fare come sfruttati, come oppressi, come proletari, è quello della lotta contro questo sistema di cui il carcere è l'ultimo fondamentale baluardo repressivo, l'estremo fondamentale baluardo repressivo, e rispetto al quale vanno portate avanti pratiche di solidarietà, di resistenza, di lotta, di unità. Pratiche che per noi si mettono in atto anche attraverso i presidi e in tutte le maniere con cui riusciamo a sostenere i detenuti e le detenute che resistono. Ecco, siamo quasi alla fine della trasmissione, allora non mi resta che ricordarvi di nuovamente gli appuntamenti, come diceva il compagno che mi ha preceduto pochi minuti fa, questo sabato 6 febbraio dalle ore 14 faremo un presidio di fronte al carcere di Tolmezzo, appunto per sostenere i detenuti in lotta e per portare loro anche l'invito fraterno da parte delle detenute del Coroneo di Trieste per l'altro appuntamento, appunto, che è la battitura del 15 di febbraio fuori dal Coroneo, battitura di protesta per in continuità con il presidio che c'è già stato il 1 di febbraio. E quindi non resta che salutando vi ricordo i nostri contatti. Allora, c'è la mail liberetutti@autistiche.org, poi c'è anche una casella postale per scrivere in cartaceo, associazione Senza Sbarre, casella postale 129 34 121 Trieste. E poi vi ricordo anche l'indirizzo del blog della trasmissione radiofonica Zardings Magnetics Radio .noblogs.org. E un saluto a tutte e a tutti, alla prossima. What does the sun of blood? Järkevät kuin pääsit mukaan bisnekseen. Liian harvoin ehtii käymääni vastaan. Jos miettii liikaa tahta aivosta jotain. Raha löytyy leluihin ja lahjoihin. Aikaa perheelle sen sijaan harvemmin. Ei harkittuihin tekoihin ja sanoihin. Vaimo pyytää viimein keskustelemaan. Ei tahdo jatkaa enää yhteistä ivaltaa. Mutta onhan sentään liivit niskasta. Ihmisten pelko hivelee sun ekoa. Istut päällikkönä pillin nenästä. Pelkoja saatavana laskut restistä. Joka ryhtyy leikkimään, se leikin kestä saa. On turha soittaa kesken yötä, itku murkustaa. Kun valot alkaa vilkumaan ja pystyt paukkumaan. Muista silloin, että pöytäkirjat tarkkaan luetaan. Kun et keskeytyy, kun novit aukeaa. Me väijymään me tullaan tänne panemaan. Voimat loppuvat, kun niitä kuluttaa. Rakanoista täytyy jyvät seuloa. Veljeys, lojallius ja kunnioitus. Univelat, passiivinen vitutus. Istut satulassa, letkä jatkona. Ajat kaauksesta kohti kuolemaa. Joka ryhtyy leikkimään, se leikin kestä saa. On turha soittaa kesken yötä, itku murkussaa. Kun valot alkaa vilkumaan ja pystyt paukkumaan. Muista silloin, että pöytäkirjat tarkkaan luetaan. Joka ryhtyy leikkimään, se leikin kestä saa. On turha soittaa kesken yötä, itku murkustaa. Kun valot alkaa vilkumaan ja pystyt paukkumaan. Muista silloin, että pöytäkirjat tarkkaan luetaan. Kestä niin kuin mies. Estos, estos, rocks on the cabello. Estos, estos, rocks on the cabello.